I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Buongiorno, manca una settimana alla disponibilità del modello 730 precompilato online e già, ci fa sapere l'Agenzia delle Entrate, è un vero e proprio boom di richieste. Sono infatti 500.000 le richieste di credenziali arrivate nei primi 3 mesi, che portano così a 7 milioni gli italiani già in possesso del PIN dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, con cui potranno vedere, accettare o modificare, infine inviare il proprio 730. Si tratta quindi di un terzo degli interessati al nuovo modello, che l'Agenzia delle Entrate calcola in 20 milioni di italiani, e si stima che di questi 20 milioni quasi il 30%, circa 6 milioni di dichiarazioni, saranno confermate senza bisogno di integrare le informazioni. Ricordiamo però che il 730 precompilato non arriva a casa in formato cartaceo, ma sarà disponibile a partire dal 15 aprile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e anche su quello dell'INPS. Il PIN permetterà di accedere al proprio cassetto fiscale, in cui trovare tutto insieme di informazioni, la dichiarazione precompilata, l'elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l'agenzia invece non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti. Poi la dichiarazione potrà essere presentata dal 1 maggio al 7 luglio. Che cosa ci insegnano i dati diffusi dall'Agenzia delle Entrate sull'adesione massiccia, superiore al previsto, dei contribuenti italiani al modello 730 precompilato? Beh, ci insegna che ogni volta che la pubblica amministrazione, in questo caso di carattere fiscale, si avvicina al cittadino, in questo caso al contribuente, l'adesione c'è ed è anche significativa, al di là delle battute o delle presunte lentezze dei cittadini italiani nel recepire le nuove tecnologie. Quello che si chiede, al di là delle tecnologie, è solo maggiore facilità di accesso e maggiore semplicità di esecuzione. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il governo rimetterà mano alla riforma Fornero sulle pensioni e lo farà, come ha detto ieri il ministro Poletti, con la prossima legge di stabilità. Sappiamo che con la riforma Fornero si è passati a un sistema pensionistico molto rigido e con requisiti molto severi sia in termini di età che di anni di contributi necessari per lasciare il lavoro. Da qui l'intenzione di rimettere mano alla riforma per introdurre una maggiore flessibilità sulle modalità di uscita dal lavoro, consentendo per esempio l'uscita anticipata in cambio di un piccolo taglio, piccolo o meno piccolo taglio dell'assegno. Non a caso il ministro Poletti ha parlato di una flessibilità graduale e sostenibile economicamente. Naturalmente quello del costo degli interventi sulle pensioni è un capitolo molto delicato, e per capirlo basta ricordare che la riforma Fornero, per quanto odiata e contestata, garantirà per i prossimi anni risparmi per quasi 80 miliardi di euro. Ecco perché il tema dei costi sarà decisivo per definire il margine di intervento entro cui il governo potrà in futuro muoversi. E a dirla tutta, il governo farebbe anche bene a non illudere troppo i lavoratori sull'allentamento della riforma. Qualche correzione potrà arrivare, ma visti i vincoli e i nostri impegni con Bruxelles, nessuno può ignorare che mettere mano alle pensioni equivale sempre a mettere mano al portafogli, e di risorse per farlo ora non ce ne sono. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.